Dice turque, cuistar, cuista. Dice turque, cuistar, cuista. Anabattista. Anabattista. Anabattista. Anabattista. Yeah. Zwinglista. Zwinglista. Kofiati. Yeah. Kofiati. Eretica. Yeah. Eretica. Mofina puritana. Mofina puritana. Yeah. Yeah. Yeah. Yoc. Yoc. Qui non star pagana. Qui non star pagana. Luterana. Luterana. Puritana. Puritana. Brahmina mofina zurina. Brahmina mofina zurina. Yok yok yok. Yok yok yok. Mahametana. Mahametana. Mahametana. Mahametana. Como chamara. Como chamara. Como chamara. Como chamara? Giordina! Giordina! Giordina. Giordina. Giordina! Giordina, Giordina, Giordina. Ah! Giordina, Giordina, Giordina! Giordina, Giordina, Giordina! Ma meta per Giordina mi pregar serre matina. Mahometa per Giordina mi pregar serre matina, voler far un paladina de Giordina, de Giordina, dar turbanta e dar scarzina, con galere brigantina per defender Palestina, dar turbanta e dar scarzina, con galere brigantina per defender Palestina. Mahometa per Giordina mi pregar serre matina, Mahometa per Giordina mi pregar serre matina. Starban turca Giordina, evada, evada. Starban turca Giordina, Giordina, evada, evada. Alla babla su, alla babla da, alla babla da, alla babla da. Alla babla su, alla babla da. Star furba, no, no, no. Non star farfanta, no, no, no. Non star farfanta, no, no, no. Donar turbanta, donar turbanta, donar turbanta, donar turbanta. No, no, no, no. bastonara, bastonara, bastonara, bastonara. Bastonara, bastonara, bastonara. Oh, bastonara. Bastonara. Oh, bastonara. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bastonara. Non ti